giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Lignano, Alba sotto il nubifragio, 100 mm d'acqua in due ore e mezza, allagamenti a Pineta, rischio di piogge intense anche nel pomeriggio, tempo migliore nel fine settimana. Porto di Trieste, la crisi di Suez penalizza il traffico container, i numeri sono tornati quelli del 2018, vanificati, anni di crescita. Nuovi cavalieri del lavoro nominati dal presidente Mattarella, ci sono anche Edoardo Roncadin ed Enrico Samer. Coordinamento salute, a Trieste il punto sul questionario diffuso in città sullo stato della sanità pubblica. I giovani e la politica, ecco come si informano e come scelgono, un giro di opinioni a pochi giorni dal doppio appuntamento elettorale. Ultimo in concerto domenica allo Stadio Rocco di Trieste, il tour dei record come i suoi album, la nostra intervista. Le 12:31 minuti, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. In apertura i danni provocati dal maltempo, 100 mm d'acqua caduti in due ore e mezza questa mattina a cavallo dell'alba hanno mandato in crisi la rete fognaria di Lignano, soprattutto nella zona di Pineta, e intorno alle 5:30 si sono allagate le strade e poi numerosi scantinati e locali. Una cinquantina le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco, poi un graduale ritorno alla normalità. Si attendono ora gli interventi strutturali che potranno evitare danni gravi con le piogge intense, un'eventualità non più rara. Il servizio. Una signora che vive a Villaggio Europa, all'ingresso di Lignano Sabbiadoro, è stata svegliata dal gatto. Scesa dal letto, si è trovata con i piedi nell'acqua. Iniziate le piogge torrenziali, si è staccata la corrente e la pompa che aveva installato non è entrata in funzione. A Lignano Pineta, un turista tedesco guarda sconsolato la sua vettura in garage, sommersa per metà. Si tratta di una zona soggetta ad allagamenti. Nel settembre 2022 le strade si erano trasformate in fiumi. Qua e là, con l'arrivo del sole in mattinata, si contano i danni del nubifragio, cantine e box allagati. A qualcuno l'acqua è entrata in casa, danneggiando parete e soffitto. Decine gli interventi di volontari della protezione civile e dei pompieri. In tre ore, caduti 85 mm di pioggia. Ai vigili del fuoco volontari del distaccamento locale, il telefono è squillato poco dopo le 4 del mattino. Un idrovorista del consorzio di bonifica ci dice che un evento meteorologico del genere è sul podio di quelli che ha visto negli ultimi 30 anni. L'ARPA segnala che il tempo di ritorno di piogge di questa intensità è di una volta ogni 10-15 anni. A Riviera, dove si era intervenuti con un potenziamento della rete di scolo, il sistema ha retto e zone che in passato si allagavano non hanno avuto conseguenze, rende noto il comune, aggiungendo che non si sia trattato di un problema di caditoie sottoposte recentemente a un importante lavoro di pulizia. Oggi il problema è costituito dai tempi necessari all'acqua per entrare nelle caditoie, poi nelle condotte e arrivare all'idrovora. Approvato dal Consiglio Comunale, dall'autunno partirà l'iter dei lavori, 12 milioni di euro in totale, per realizzare uno scaricatore di piena. Si tratta di una grande condotta sotterranea di 2 metri di diametro realizzata dal CAFC che porterà l'acqua da sotto Parco Hemingway a Pineta a una delle tre idrovore del consorzio di bonifica. Il nuovo tubo sarà una sorta di autostrada sotterranea che permetterà all'idrovora di intercettare, invece degli attuali 8.000 litri al secondo, 13.000 litri al secondo. Idrovora che a sua volta verrà potenziata, verrà realizzato un nuovo bacino collettore d'acqua e le pompe passeranno da 5 a 8. Lignano Sabbiadoro, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. E maltempo questa mattina ha colpito, sebbene in misura minore, anche l'Isontino. A Cormons si registra l'allagamento di via Colombicchio, in aggiunta via Brazzano. Altri danni si sono verificati a Vencò di Dolegna del Coglio, in prossimità dell'intersezione tra la strada provinciale 14 e la provinciale 29, con allagamenti e scantinati. Più contenuti i danni a Trieste, a fronte di qualche tombino allagato e di rami divelti, mentre nel Pordenonese sono da poco ricominciate piogge intense. E le piogge intense all'alba di oggi hanno interessato soprattutto la costa, hanno provocato forti disagi e qualche danno anche in Slovenia, tra Pirano, dove è rimasta allagata la storica piazza Tartini, e Capodistria, dove sono state alcune decine di gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per allagamenti. Sulla superstrada fra Capodistria e Bertocchi, lungo la principale direttrice fra il confine italo-sloveno e l'Istria, in questi giorni molto frequentata dai vacanzieri, una corsia è stata chiusa per un cedimento con ripercussioni sul traffico. Diamo uno sguardo alla situazione del tempo in questo momento. Il cielo è poco nuvoloso sulla costa, coperto in pianura, in montagna, però le piogge, come abbiamo visto, sono frequenti anche in queste ore. Le temperature delle 11 a Trieste 22 gradi e mezzo, il mare è poco mosso e ha una temperatura di 19 gradi e 5, a Gorizia 22 gradi, a Pordenone 17 e mezzo, a Udine 17, nell'area montana a Tolmezzo 12, a Tarvisio 10 e 5 decimi, a Sapada 7, sul Piancavallo 9 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 9, sullo Zoncolan 4 e 5 decimi. Tornando sulla costa, a Grado 22, a Lignano 19 e mezzo, con temperatura del mare 21 gradi e 5 decimi. Per le previsioni meteo delle prossime ore del fine settimana abbiamo parlato con Francesco Sioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale. Nelle prossime ore ancora sulla regione rimarrà instabilità finché la depressione si sarà spostata verso est in serata. Quindi ancora nel pomeriggio ci aspettiamo rovesci e temporali sparsi, anche intervallati a momenti senza piogge e con fasi forse anche di tempo migliore tra la pianura e la costa. Non si esclude però ancora localmente qualche temporale forte, la possibilità quindi di qualche pioggia localmente intensa, in particolare sulle zone orientali della regione. Dopo i residui rovesci di questa notte fino alla prima mattina, domani la giornata proseguirà con cielo da poco nuvoloso a variabile su pianura e costa e cielo da nuvoloso a variabile sulla zona montana. Dal pomeriggio proprio in montagna avremo ancora la possibilità di rovesci sparsi con qualche temporale che potrà estendersi anche alla pianura, dove non si esclude anche localmente qualche fenomeno più forte. Per domenica? Domenica sarà una giornata molto simile a sabato, ma con lo stato del cielo ulteriormente migliore, quindi cielo poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana, ancora la possibilità di rovesci o piogge, ma molto localizzati e brevi e solo sulla zona montana nel pomeriggio. Questo maggio è stato particolarmente piovoso rispetto al passato? Sì, questo maggio è stato particolarmente piovoso su tutta la regione, abbiamo superato la media del periodo, ma localmente le piogge accumulate sono quasi il doppio o il triplo di quelle della media. Per la settimana prossima ci possiamo quindi attendere una maggiore stabilità? Lunedì e martedì ancora una depressione porterà a delle piogge diffuse tra lunedì pomeriggio e martedì pomeriggio. La tendenza vede solo da giovedì, diciamo, una fase un po' più stabile, tuttavia la tendenza rimane incerta. I temi dell'economia, torniamo a parlare del porto di Trieste, questa volta con i dati dei traffici, in particolare dei container. La crisi di Suez ha determinato una forte contrazione. Servizio. La crisi del Mar Rosso ha riportato i traffici dei contenitori del porto di Trieste ai livelli del 2018, bruciando 6 anni di solida crescita. E questo è l'elemento principale che emerge dalle statistiche che mensilmente pubblica Trieste Marine Terminal, il gestore del Molo VII. Da gennaio ad aprile 2024 sono stati scaricati 202.000 TEU, l'unità di misura comunemente utilizzata per i container. Si tratta di un meno 19%. Rispetto allo stesso periodo dell'anno passato, i cui numeri sono stati vicini al record del 2022. Un quadro poco roseo di cui dovrà farsi carico il nuovo commissario Vittorio Torbianelli e il prossimo presidente, quando sarà nominato. A pesare è prima di tutto la situazione geopolitica. Molte navi non passano più per il Mar Rosso per il timore di attacchi delle milizie Houthi e così, circumnavigando l'Africa, trovano meno conveniente approdare in Adriatico. Il presidente uscente Zeno D'Agostino aveva già da prima di questa crisi adottato una politica di diversificazione del rischio, puntando sui traffici all'interno del Mediterraneo. Infatti, il contesto non penalizza in egual modo tutti i traffici portuali. Minore l'effetto su traghetti ro-ro dalla Turchia, piattaforma logistica e terminale petrolifero del gruppo Siottal. In tutti questi casi ha meno importanza il passaggio per il canale di Suez. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Edoardo Roncadin, fondatore e presidente dell'omonima azienda che produce alimenti surgelati a Meduno, ed Enrico Samer, imprenditore triestino attivo nella logistica e mecenate sportivo, sono tra i 25 nuovi cavalieri del lavoro, il cui decreto di nomina è stato firmato oggi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nella rosa dei 25 nomi scelti dal Presidente della Repubblica, anche il friulano Edoardo Roncadin, presidente di Bofrost Italia, azienda leader nella vendita dei surgelati a domicilio, e il triestino Enrico Samer, presidente e amministratore delegato della Samer Eco Shipping, azienda di famiglia da oltre 100 anni attiva nel settore dei trasporti marittimi a Trieste. Grande la soddisfazione e la commozione di entrambi i neocavalieri del lavoro. Per Edoardo Roncadin il coronamento di una vita professionale cominciata a 16 anni da gelataio in Germania fino a diventare fornitore del gruppo tedesco Bofrost, allora operante nella distribuzione di caffè e gelati, e nell'87 la costituzione di Bofrost Italia, San Vito al Tagliamento, con le partecipate in realtà da 500 milioni di fatturato e quasi 4.000 dipendenti e 1 milione di clienti. Ho sempre seguito i miei sogni e ho avuto la fortuna che in tanti ci hanno creduto e mi hanno seguito. Il suo commento a caldo appena appresa la notizia del conferimento del cavalierato, per lui un grande motivo di orgoglio, il riconoscimento che dice di voler dedicare a tutti i suoi collaboratori e alla sua famiglia, i primi ad aver creduto al suo sogno e ad averlo spinto a realizzarlo e ad andare sempre avanti, afferma. Commosso anche Enrico Samer, alla guida di un gruppo da 140 milioni di euro e oltre 600 dipendenti, che dall'87 gestisce l'autostrada del mare che collega l'Europa alla Turchia tramite il porto di Trieste, attraverso un modello di intermodalità che utilizza il trasporto marittimo, stradale, ferroviario e aereo, con una movimentazione complessiva di oltre 300.000 mezzi pesanti e più di 5 milioni di tonnellate di merci l'anno. È presente con società partecipate in paesi dell'Europa dell'Est e dei Balcani. Quando l'ho saputo dal presidente dell'Associazione Cavalieri del Lavoro, dice, sono rimasto senza parole. E poi aggiunge, un riconoscimento che mi onora. Il mio primo pensiero è andato a mio padre, mancato qualche anno fa. Sarebbe stato molto orgoglioso per tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme in tutti questi anni. Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oltre 1200 soci che si aggiungono ad oltre 500 dipendenti non soci, con una presenza femminile superiore all'80%. Questi numeri dell'occupazione di Itaca, la cooperativa che opera nel campo sociale, sanitario ed educativo in tutto il Friuli Venezia Giulia e che ha presentato il suo bilancio. Il fatturato supera i 52 milioni di euro, il più alto in 31 anni di storia. I beneficiari delle attività sono stati nel 2023 oltre 31.000, distribuiti in 205 servizi, consolidando in aumento i risultati dell'anno precedente. Il fatturato sviluppato è realizzato per 78% in Friuli Venezia Giulia e 22% tra Veneto, Lombardia e Alto Adige. Il patrimonio netto sfiora i 9 milioni di euro, l'età media dei lavoratori occupati cresce e sfiora i 43 anni, un segno, spiega una nota, di stabilità e contenimento del turnover. A Trieste 3.000 persone hanno risposto al questionario sullo stato della sanità pubblica promosso attraverso i banchetti diffusi in tutta la città, soprattutto nelle periferie, dal coordinamento Salute Cittadino. Poco fa è stato fatto il punto in un incontro con la stampa. Nelle periferie come in centro città hanno raggiunto moltissime persone, sfidando anche il maltempo. Con 220 banchetti, 120 volontari, sono stati raccolti di fatto 3.000 questionari. E il coordinamento salute, nato 3 anni fa, in questi ultimi mesi sta dando davvero tanto da fare per raccogliere un po' quello che è il malessere della città nei confronti della sanità pubblica. Una sanità che, dice coordinamento, manca. Noi siamo qui con Maria Grazia Cogliatti Dezza, rappresentante del coordinamento. Dati effettivi ancora elaborati del questionario non li avete, però voi siete stati a contatto con le persone. Le persone che cosa lamentano? Ma guardi, noi soprattutto nei rioni più affollati o in determinate giornate di particolare presenze abbiamo avuto la gente che si metteva in fila aspettando il tempo della persona avanti a lui o a lei di fare il questionario, perché voleva denunciare tutta una serie di ritardi, mancanze, soprusi che la gente credeva di aver ricevuto in questa sanità che ormai non è più una sanità pubblica, non risponde più minimamente all'articolo 32 della Costituzione, che dice che in qualche modo sottolinea il carattere universalistico della sanità pubblica, cioè la sanità deve raggiungere tutti, tutti, non solo quelli che da soli riescono ad arrivare, ma deve in qualche modo organizzare i propri servizi in modo tale che riusciamo ad essere vicini alle persone più fragili, alle persone che poi sono quelle che hanno più bisogno. Il problema è soprattutto nel territorio o in ospedale? Il problema è soprattutto in territorio, è il territorio, perché la politica del momento, la politica locale triestina, la politica regionale, hanno distrutto completamente l'organizzazione precedente che aveva in Italia, prima fra tutte Trieste, organizzato una strutturazione del territorio fantastica, che aveva trattenuto la domanda nel territorio. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. La politica e i giovani, un rapporto secondo alcuni sempre più labile, e mentre ci avviciniamo all'appuntamento elettorale con le comunali e le europee abbiamo raccolto alcune opinioni tra i ragazzi. Come si informano e come formano le loro opinioni? Sentiamo. Sei informata in qualche modo, non so, tramite i giornali, internet, come? Tramite telegiornale, comunque online, diverse opinioni di diverse persone, magari testate giornalistiche o anche semplici influencer, magari che hanno rilevanza politica. No, diciamo, non ci ho pensato, però pensavo di sì. Io sono fuori sede e studio qua all'università, però purtroppo non sono riuscita a presentare al comune di residenza la domanda in tempo. Ma sì, penso di sì, sicuramente, ecco. Sì, assolutamente, sì, andrò. Sì. Sì, andrò anch'io. Come ti sei preparata per fare la scelta? Ancora non mi sono preparata. Sì, andremo a votare, io nel mio comune di residenza, quindi torno su in comune e andrò volentieri a votare. Sì, anche io sono pugliese in realtà e quindi ritorno giù per votare e ho avuto l'occasione, insomma, anche per rivedere la mia famiglia. Chiaramente, è un mio diritto dovere, esatto. Alla fine. Le mie amicizie tendenzialmente vanno a votare. Poi non so per il resto dei giovani. Tendenzialmente. Dove vi siete informati, se vi siete informati per questo voto? Chiaramente cercando su Google, su Instagram e le varie pagine dei partiti. Poi ovviamente ho già le mie idee politiche, quindi... In che modo ti sei informato? Tramite i social, sono tutti là. Quale usi di più di social? Instagram. Ho trovato un test su un sito per verificare qual era il partito più allineato alle mie idee. Si dice in giro che i giovani sono disinteressati alla politica. Non credo sia vero, in realtà le più grandi discussioni sulla politica le ho avute proprio con i miei compagni coetanei. Non siamo poi del tutto convinti sulle stesse idee, proprio questo è il bello, che c'è discussione, c'è un po' di dibattito. Quest'anno andrò perché ho compiuto 18 anni, perché credo che sia giusto che se abbiamo la possibilità ognuno può contribuire a ciò che sarà il futuro. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Contiene fumetti e disegni utili a sensibilizzare i bambini sul tema della legalità e si è rinnovata oggi a Trieste, come in tutta Italia, la consegna dell'agenda scolastica Il mio diario, realizzata dalla Polizia in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il sostegno del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La nuova edizione, l'11ª, viene distribuita in oltre 1600 copie in città agli alunni delle classi terze e delle scuole primarie. Questa mattina la presentazione del diario è avvenuta all'Istituto Ruggero Manna, alla presenza tra gli altri del prefetto Pietro Signoriello e del questore Pietro Stuni. L'iniziativa, ha sottolineato il questore, è ormai consolidata da anni ed è utile per diffondere una cultura della legalità attraverso fumetti e personaggi che divertono i bambini, ma allo stesso tempo veicolano messaggi importanti anche contro episodi di bullismo e cyberbullismo che possono verificarsi anche tra i giovanissimi. Lo scrittore e docente pordenonese Enrico Galliano condurrà a Udine l'appuntamento conclusivo di Ci puoi scommettere, progetto regionale contro il gioco d'azzardo tra i minori, inteso a distinguere l'azzardo dal gioco sano e contrastare i comportamenti a rischio tra i minori. L'iniziativa, che era stata avviata a dicembre, ha coinvolto 150 insegnanti della regione e prevede 3 seminari, tra cui quello intitolato Il gioco e lo sviluppo del cervello adolescente, il gioco sano in contrasto al gioco d'azzardo, con particolare attenzione ai processi neurologici correlati, con Alan Mattiassi. L'appuntamento è a Palazzo di Toppo Wasserman dalle 15. È stato presentato il nuovo corso di specialista delle qualità biotech presso It's Academy per le nuove tecnologie della vita di Trieste. Con il diploma di un istituto professionale, ovvero il diploma di quarto livello, da quest'anno si può accedere a un nuovo percorso di formazione di tecnici specializzati del sistema di qualità biotech. Si tratta di un nuovo post-diploma di It's Academy e Alessandro Volta per le nuove tecnologie della vita, in collaborazione con l'Istituto Tecnico dell'Edda Fabiani. Il percorso forma figure altamente specializzate nell'ambito biotecnologico. Il Biotech Quality Specialist in 2 anni forma per la gestione dell'intero sistema di qualità qualità dei processi di produzione. Punto qualificante degli istituti tecnici superiori sono la forte sinergia con le imprese del settore e 6 mesi di tirocinio, come spiega la direttrice Laura Cerni. Abbiamo oltre 170 imprese però del comparto life science, comparto biotecnologico abbiamo circa una 50 di imprese, ma noi ci allargheremo anche ai territori limitrofi. Parleremo con le imprese slovene, austriache, tedesche, croate, proprio perché i ragazzi hanno l'opportunità di fare il tirocinio anche all'estero. Manuel Dagri, che frequenta il corso di tecnico informatico di biomedicina, ha condiviso il suo entusiasmo per il percorso scelto. Ciò che mi ha più entusiasmato dell'Leeds Academy è il fatto che mi ha garantito da subito un'immersione nel lavoro, guidandomi all'interno di un'azienda, scegliendo e permettendomi di scegliere quella che più faceva per me e garantendo tutte le competenze che possono servire a un giovane nel mondo del lavoro e quindi di riuscire a muoversi con le conoscenze giuste e le competenze necessarie. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le 12:51 minuti, la pagina della cultura a un mese dalla chiusura della grande mostra dedicata al genio di Van Gogh al Museo Revoltella di Trieste, sono stati superati 110.000 visitatori. Aperta lo scorso 22 febbraio, la retrospettiva è destinata a essere una tra le mostre più viste nel 2024 e, come affermano i promotori, sono ancora tantissime le prenotazioni fino al 30 giugno, con giorni totalmente sold out. Le lunghe file all'ingresso del Museo Trieste hanno confermato quanto Van Gogh sia l'artista più amato di sempre. Grazie a un piano ministeriale che supporta l'incremento delle collezioni pubbliche di arte contemporanea e grazie a un finanziamento del Comune di Udine, Casa Cavazzini ha potuto acquistare una ventina di opere che tra il 2020 e il 2022 sono state esposte nelle due edizioni di Contrappunto, in un progetto curato da Vania Granzinige e Francesca D'Ostinelli, che fa dialogare la produzione artistica contemporanea del Friuli Venezia Giulia con le collezioni del museo per rilanciare i musei civici. A partire da oggi le nuove acquisizioni saranno esposte a Casa Cavazzini in una mostra che rimarrà aperta fino al 30 giugno e che si inaugura alle 17:30. Gli spettacoli allo Stadio Rocco di Trieste è quasi tutto pronto per il concerto di Ultimo domenica, data zero del suo tour. L'abbiamo incontrato e ci siamo fatti raccontare il suo rapporto speciale con Monfalcone. I fan che lo aspettano sotto l'hotel, lui che si concede, Trieste che lo accoglie. L'artista Ultimo inaugura domenica sera la stagione dei concerti a Trieste allo Stadio Rocco, che torna ad ospitare la musica dopo il grande successo dei Maneskin dello scorso anno, e una settimana dopo sarà la volta di Max Pezzali. Si tratta in entrambi i casi di date zero. L'organizzazione ha infatti concesso l'esclusiva regionale alla FVG Live e Vigna PR, che si accolleranno l'intera spesa dell'eventuale rizzollatura del campo, che sarà curata dalla FGC. Ma tornando a Ultimo, altrove è il disco più venduto in Italia. Vi voglio bene, grazie. Uscito da pochi giorni altrove, l'album più venduto della settimana, Ultimo 28 anni, è il cantautore dei record con all'attivo 68 dischi di platino, 21 d'oro. Ha scelto Trieste e le sue esperienze artistiche si intrecciano anche con l'Isontino, che ha dato i natali alla celebre Elisa e al marito, il produttore musicale e chitarrista Andrea Rigonat, come raccontato nell'intervista in esclusiva per noi. Friuli, in realtà sono venuto spesso e vengo spesso perché c'è Andrea Rigonat, che è un direttore artistico della band e si occupa di tutto il tour, per cui in realtà c'è un legame con il Friuli e c'è anche una sorta di rispetto, perché io quando vengo a Monfalcone, si chiama il posto, in questo studio a lavorare, sento sempre un'energia particolare e ho dei ricordi belli legati a quel posto. Per cui sì, quel momento Monfalcone diventa il mio altrove quando lavoro al disco. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali di oggi. Divine Capocomical Recital, che ripercorre gli scritti di Eleonora Duse, Die con Bruna Braidotti e Sandro Buzzatti, appuntamento a Pordenone nella sede del Museo PAF a Villa Galvani alle 20:30. Io credo, dialogo tra un ateo e un prete, il libro scritto dall'astrofisica Margherita Hack con Don Pierluigi Di Piazza sarà commentato da Vito Di Piazza, medico e fratello di Don Pierluigi, e da Don Mario Vatta, fondatore della comunità comunità di San Martino al Campo nell'ultimo appuntamento della rassegna Rose, Libri, Musica, Vino a Trieste, Roseto del Parco di San Giovanni alle 17.30. In caso di maltempo l'incontro si terrà al Teatrino Basaglia. A seguire un'altra iniziativa in tema, lo spettacolo per giovanissimi Margherita e le sue stelle, allestito in occasione del centenario dell'Ateneo Giuliano, in cui la HAC lascia un segno indelebile con il suo atteggiamento indipendente, anticonformista. Appuntamento al Parco di San Giovanni alle 19. La mostra omaggio a Zigaina, che espone i lavori dei partecipanti al concorso scuole dell'Istituto di Cervignano del Friuli, sarà inaugurata a Cervignano alla Biblioteca Civica alle 18. Archeologia preistorica e fascismo, il curioso caso dei templi megalitici di Malta, e la conferenza che sarà condotta da Andrea Pessina a Trieste, a Palazzo Gopcevic alle 17. In chiusura lo sport, a Sacile si apre la rassegna Extreme Days tra discipline sportive spettacolari e musica. La mountain bike aprirà il programma serale alle 20 e un'ora più tardi sul palco di Piazza del Popolo salirà il rapper Dargen D'Amico, uno dei protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo. Fino a domenica nel centro cittadino si susseguiranno esibizioni e dimostrazioni di sport estremi in un programma ricco di adrenalina. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Mauro Cumin e Carlo Morello. Sono le 12.56, la prossima edizione alle 15. A tutti voi grazie per l'ascolto e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.